Radio Popolare presenta La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Buongiorno a tutti, il programma prevede di parlare di odi e inni, di ciò che accade prima della partita, nonché di anime buone.